No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto, cazzoni, sono culone. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Senta, scusi, è entrato adesso uno che... Benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fri-fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Perché non fate un bello spot con una famiglia? Ah, bellissimo. Diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente. Per noi, in che senso, scusi? Noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. Cioè? La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè non fareste unita, mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo perché la nostra è una famiglia tradizionale. Continui a suonare. Se gli piace la nostra pasta e la nostra comunicazione la mangiano, se non gli piace e non ci piace quello che diciamo faranno a meno di mangiarla e ne mangeranno un'altra. Ma uno non può piacere sempre a tutti perché piacere, cioè, lei non farebbe mai uno spot, lei non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale seduta a un tavolo? No, non lo farei. No. Non sono frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. No, posto asciutto. Allora, vi dico subito una cosa, cari ascoltatori, pubblico in ascolto sulle macchine, sui camion, sui taxi, vi dico subito una cosa, che io sono a spada tratta, lo dico anche a te, caro Parenzo, a spada tratta a fianco del signor Guido Barilla. No, vi dico subito, ha sbagliato probabilmente dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista commerciale, non lo so, questo lo lascio decidere agli altri. Qualche espressione magari era fuori luogo, no? Perché non è politicamente corretta, non è politicamente corretta, va bene. Però ditemi voi, il boicottaggio della pasta Barilla, no, amici miei! Il boicottaggio, ogni azienda ha il cazzo di diritto, ovviamente c'è anche il diritto di fare il boicottaggio, è chiaro, però ogni azienda ha il cazzo di diritto di fare la comunicazione come vuole. Siccome questi hanno deciso da anni, non da oggi, di fare la comunicazione con la famiglia classica, no? Cioè, sì, poi, ma quello è grave. No, poi diciamo la verità, scusa un attimo, tu te lo ma immagini, la cosa grave non è quella. Te lo immagini una grave. Pubblicità, te lo immagini una pubblicità in cui c'è un signore, un ragazzo o un signor anziano, non lo so, con movenze omosessuali che va a portare la colazione o va a portare la pasta ad un altro tizio, magari con un bambino allo stesso tavolo. Forse sarebbe geniale, non lo so, sarebbe magari geniale e succederebbe. Sì, ma uno non è che arriva lì con un piatto e dice: "Cosa c'hai? Ho un piatto di spaghetti con i piselli." No, non puoi, no? Vabbè, perché deve fare forza questa voce? Sei... spaghetti coi piselli. Vabbè, ma sei... è una battuta veramente di quart'ordine, cioè. No, è una battuta veramente... No. Comunque, no, cari amici, il caso Barilla è diventato un caso internazionale. Abbracciamolo fortissimo, perché ovviamente c'ha un po' di strizza, perché il problema non è l'Italia, il problema è l'estero, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, che sono tremendi lì. Il mercato della Barilla c'è anche negli Stati Uniti, dappertutto. E lì, quando comincia a diventare... cioè, i boicottaggi qualche volta funzionano, per cui io sono a spada tratta contro il boicottaggio. Ora voglio anche bene al signor Mancuso, no? Aurelio Mancuso, ex presidente dell'Arcigay, però non mangeremo più la sua pasta. Io capisco tutto, la visibilità e tutto. Amico mio, dai! I cittadini e le proprie idee sono comunque segmento di mercato. Ci invita a non mangiare la sua pasta, ma noi volentieri raccogliamo il suo appello. Bene, non compreremo solo più la sua pasta. Cioè. Anche Oliviero Toscani, dai. Oliviero Toscani, non mangio più Barilla. Se il Barilla dice una cosa di vergognosa, gli dica che non solamente gli omosessuali non mangeranno Barilla, ma non mangio più neanch'io. olio, poco sale, spaghetti al dente, un soffio. Che poi mi hanno fatto notare oggi moltissime persone, mi hanno fatto una testa così oggi, non ne posso più, guarda, non ho fatto un cazzo tutto il giorno, ho lavorato pochissimo, ve lo dico subito, ho lavorato pochissimo tutto il giorno, mi hanno fatto una testa così con questa storia di Barino, non ne potevo più. Cioè, allora, c'era uno spot con Banderas, che è un'icona gay in realtà, no? Per cui... Beh, certo. Senti. Rosita, guardami negli occhi. Ora stai attenta. Queste sono tre fette biscottate. Questa l'ho fatta io. Queste due, no. Ora dimmi. Qual è la mia? Oh, Rosita, mi hai beccato. Il mio grano, il mio forno e il mio cuore. Non puoi non riconoscerle. Per il resto, che è accaduto? Avremo tempo, modo per parlare di altre cose che ha detto il signor Barilla ieri, scatenando un putiferio soprattutto sulla questione omosessuale. Che c'è poi questo conflitto tra Napolitano e il PDL? Perché Napolitano questo dice: ma non si può evocare il golpe, no? Non si può evocare il golpe. Però Berlusconi mica la prima volta che evoca il golpe. E poi, diciamo la verità, cioè nella comunicazione politica, nella discussione politica, Berlusconi ha tutto il diritto di parlare di golpe. Ma di che parliamo? Perché Napolitano si deve impicciare di quello che dice Berlusconi? È una discussione che avviene tra i... Ma ho capito, ma Napolitano non è che fa l'attore, ma dove fa il Presidente della Repubblica? Impicciare, lo dice come fosse un passante. Ma no, ma non è che può intervenire su una singola affermazione di un politico, perché altrimenti cioè non è il Presidente della Repubblica. Cioè, se ne dicono di tutti i colori Berlusconi, anche Epifani ha detto delle un po' meno, diciamo. Epifania Santa, che credo dall'applauso scrosciante, dall'unione, dalla bellissima atmosfera di coesione che c'era stasera dentro la sala della regina, io non avrei dubbi a capire la coesione che c'è intorno al presidente Silvio Berlusconi. Siamo solo, anche perché siamo tutti Silvio Berlusconi. Siamo tutti Berlusconi, questo è da vedere. Lei sarà. Oggi la Santanchè ha detto che Napolitano è arrogante, minaccioso e di parte. Eccoci qui, la Zanzara, 800240024, primo ospite della serata, Augusto Minzalini, senatore. Ciao Augusto, come stai? Ciao, tutto bene? Bene, ciao. Bene, tu? Sì. Bene, bene, ma lo sai, Parenzo, che Minzolini è un'icona gay? Beh, sì, me l'hanno detto. Piace molto. Perché questa... Parenzo, per via della pelata, perché no. Dicono che quelli che sono pelati... funziona, diciamo che l'instrumentum regni, no, diciamo, no, così. Non c'entra niente, no, tu invece affascini con il tono della voce. Beh, allora sei stronzo. No, però dimmi, Augusto, però è vero. Scusa. Però Augusto, è vero che tu sei un po' icona gay, diciamo. Sì, questo è vero. Io li rispetto, però non ho purtroppo quell'indole. Cioè, in che senso? Non è molto simpatici, sono divertenti. Li rispetto, ma non so, ma mi piace un'altra cosa. Vabbè, non tradurlo così in maniera lo traduco veloce e volgare. Sai, però così io parlo come mangio, lo sai, no? Sono abituato così, e la mia condanna, come dire, se vuoi la mia condanna. Ti piacciono le donne. Ti piacciono le donne. Ti piacciono le donne. Infatti io dicevo questo, non volevo dire ti piace un'altra cosa. Ti piacciono le donne, dunque. Però è un'icona gay. Credo che ci sia stata qualche rivista addirittura. Perché tutta sta cosa dei pelati? Io non so, pelato. Cioè, la cosa mi dispiace, perché poi però la Concia mi ha detto che anch'io sono un po' icona gay. Vabbè. Siamo tutti icone gay. Senti, appunto, siamo tutti icone gay. Scusate, ma Augusto, sei dalla parte di Guido Barilla, che oggi è stato crocefisso praticamente da tutti, ed è una delle cose del giorno, per cui ti faccio subito commentare sta roba, inutile. Ma io penso che ognuno deve dire quello che vuole. Cioè, nel senso, questa storia del boicottaggio, qualunque cosa, diciamo, specialmente se in un modo o nell'altro interferisci con quel mondo, secondo me è un po' esagerato. Sai, rischia di essere un'autoghettizzazione. Cioè, immagino che queste cose qui, quello lì è il pensiero di Barilla, uno lo può rispettare, non lo può rispettare, ma in ogni caso... Cioè, non è che si può imporre a Barilla adesso di fare la pubblicità con una famiglia omosessuale, magari con un bambino al tavolo, dai, su! Ma sì, cioè... ma trovo tutto un po' paradossale, capisci? Cioè, è un discorso, mi sembra, che è un po' lontano dalla logica comune. Cioè, in un modo o nell'altro, nel senso, lui ha questo tipo di visione del mondo, pensa che questa sia la cosa giusta da fare e uno la rispetta. Cioè, il boicottaggio è ridicolo. Il boicottaggio è ridicolo o no? Ma certo che è ridicolo. Cioè, che facciamo il boicottaggio al pomodoro, alla pasta, diciamo, con pomodoro e basilico, tutti. francamente ti giuro, è proprio una cosa un po' assurda. Ma prima del TG1 ti dà l'impressione di un'autoghettizzazione, perché poi uno può dire io non voglio la pasta, non la faccio, cioè non faccio la pubblicità in un altro modo, allora qualunque tipo di comunità dovrebbe intervenire e fare un boicottaggio. I ciccioni, che ne so, i ciccioni oppure i pelati. Noi non vogliamo i pelati, non vogliamo che si diciamo. No, però Augusto, dimmi una cosa, diciamo, prima i pomodori vengano chiamati pelati, perché sennò noi li boicottiamo. Ma prima del TG, prima del TG1, avresti mai accettato uno spot con dei soggetti magari omosessuali? Cioè, oppure per Rai 1, per esempio, avere uno spot pubblicitario con soggetti o comunque esplicitamente con persone omosessuali è un rischio per Rai 1? Ma probabilmente, ecco, uno deve tener conto anche delle finalità, perché tu stai facendo pubblicità. Probabilmente per Rai 1 potrebbe essere un rischio, perché tu sai, si rivolge alla famiglia, ha un modo di pensare prevalente in Italia, e quindi chiaramente tu se fai una pubblicità cerchi di non dividere, cerchi di avere un mercato molto ampio, quindi di dirigerti verso tutti, quindi non ti identifichi troppo. Se tu vai a vedere molto spesso le immagini, i personaggi delle pubblicità sono molto comuni, cioè molta gente ci si può rispecchiare. Baccalone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso nella casa. Io me ne magno. Mi rende isterico. Che poi, attenzione, in realtà, secondo me, la frase più attaccabile di Barilla non è tanto quella sul fatto che non fa gli spot con gli omosessuali, perché quello ci sta, ma questa sui proci che disturbano, ovviamente non l'ha detto così, è la mia traduzione. Lo farei, ma non per mancanza di rispetto agli omosessuali, che hanno diritto di fare quello che vogliono senza disturbare gli altri, ma perché non la penso come loro e penso che la famiglia a cui ci rivolgiamo noi è comunque una famiglia classica, e dove tra l'altro la donna, per tornare all'argomento di prima, ha un ruolo fondamentale, che è la madre, che è il centro concettuale. Senza disturbare, che poi mi segnalano che in realtà pure a casa Barilla non è che ci sia proprio il prototipo di famiglia tradizionale, il prototipo, senza entrare nel dettaglio, non è che sia proprio il prototipo. Cos'è la comunque adesso, comunque Schaubert. Noi siamo qui con le mani pulite, non ce ne frega niente, ne abbiamo per tutti, diciamo quello che pensiamo in piena libertà. Allora, Minzolini, napolitano che cos'è? Una specie di... si sente Napoleone? Dimmi, come lo definisci? Si sente De Gaulle? Chiamiamolo come vuoi, nel senso c'è una certa inclinazione all'interventismo, cioè nel senso... Forse a me mi sembra molto complicato, specialmente nel mondo della sinistra, perché da una parte tu hai una difesa totale della Costituzione, poi nella prassi c'è un presidente che interviene un po' su tutto, anche sulle riunioni dei Permettimi un attimo, perché sono vado ai matti, Minzolini. Ma adesso state facendo il processo a Napolitano, quando la tronza è tu mi dai la francamente Berlusconi dire, non aspetta, Augusto. Mi ha fatto una domanda. Augusto, aspetta un attimo, Parenzo, Augustino mio, ti voglio dire questo, Augusto Minzolini. Berlusconi ha parlato di golpe. Il signor Napolitano ha messo un attimo le cose a posto dicendo: guarda, Presidente della Repubblica, non vedo carri armati, non vedo circondato Palazzo Chigi. Questo è il punto. Adesso tutti attaccate Napolitano, ma poi c'è da attaccare Berlusconi. Ma il golpe, ma tu devi partire da un presupposto che. Ma dov'è il golpe? Una persona immagina. Scusami, Parenzo, ti ho ascoltato, fammi parlare. Scusa, Minzolini, i giudici stanno facendo un golpe? Dimmelo, secondo te. Berlusconi, e secondo me ha ragione. Ah, dunque, anche secondo Minzolini. La cronaca di questi 20 anni, con 57 processi, e come sta avvenendo adesso, diciamo, la sua esclusione dal Parlamento, questo è stato un processo politico, lo vuoi chiamare colpo strisciante o qualunque cosa, ma che chiaramente è una cosa che non nasce ora, perché dopo 57 processi una cosa può Ma la frode fiscale è un reato grave, secondo te? Ma ti dico una cosa, a me la cosa che colpisce in questo paese è che sugli stessi reati per anni diversi ci sono state due assoluzioni. Vabbè, quello è un altro discorso, ma la frode fiscale è un reato grave. Allora, la cosa drammatica di questo paese è la certezza del diritto, che se tu per caso vieni processato a Milano hai un esito. Va bene. Però secondo te in generale quel tipo di reato secondo te è grave oppure no? Cioè dovrebbe portare alle dimissioni di qualcuno oppure no? Uno che ha una condanna dal presupposto che dato che diciamo non sono uno che mette la testa sotto la sabbia, che vedo anche come viene portata, diciamo, una determinata accusa. Allora, se una persona quell'anno dà allo Stato non so quanti... cioè, a te non basta una sentenza definitiva, questo è il punto. Cioè... Ecco, ma la sentenza definitiva, tenendo conto del tipo di sentenza che è stata data dai giudici che l'hanno emessa, e ve l'abbiamo visto tutti dall'intervista di Esposito e via dicendo, io comincio a avere dei dubbi. Guarda, vabbè, il fatto che ieri l'Unione Europea abbia, diciamo, iniziato... Sì, vabbè, la procedura sul fatto che non c'è la responsabilità civile dei magistrati. La dice lunga. Vabbè, ma chi se ne frega dell'Unione Europea? Dai, sono procedure che tanto non portano a nulla. Scusami, francamente adesso vorrei essere un po' più chiaro. Ma non portano a nulla queste procedure. Scusami, noi siamo in una situazione in cui abbiamo una politica economica del cavolo, perché abbiamo dei parametri europei, e lì ce ne freghiamo, siamo lì, ci mettiamo l'occhiello. Ma sono procedure complesse, dai. Se arriva più un commissario, qualunque cosa che dice, dimostrando di avere soltanto un governo dei pigmei, perché ti dice, dovete fare così, e il giorno dopo esce fuori la notizia. Ma il governo dei pigmei fa parte anche... Anche PDL, anche PDL fa parte del governo dei pigmei. Ci sono ministri del PDL. Però mi devi far parlare. No, Augusto, dimmi, tu hai detto governo di pigmei. Governo di pigmei ci sta. C'è pure il PDL. C'è pure il PDL. Se per caso arriva un commissario europeo e qui, e diciamo, alza il sopracciglio. Tu hai parlato di governo di pigmei. Tu mi devi far finire, perché almeno te lo spiego, no? Ho capito, ma c'è poco tempo. Allora, io che cosa mi aspetto? Cioè, che il giorno dopo sui giornali non esca fuori l'ipotesi che potrebbe esserci un aumento dell'IVA. Mi immagino che ci sia una reazione da parte del Presidente del Consiglio. Beh, no, ma ci sono anche gli altri, non c'è solo il Presidente del Consiglio. Infatti noi abbiamo posto il problema. Vabbè, Letta un pigmeo, tu dici Letta un pigmeo. Io non ho dubbi che quella reazione che è stata fatta su questo tipo di iniziativa dell'Europa è propria di un governo di pigmei. Punto. Oh, cioè, chi sarebbero i pigmei? Non voglio fare battute perché non è il caso. Parlo dell'esecutivo in generale. Dell'esecutivo. Dunque, anche i vostri ministri. Anche i vostri ministri. Avrei risposto, perché se per caso una maggioranza tale che rappresenta buona parte del paese, se devo dare un senso a questa maggioranza, ti posso chiedere mi pongo il problema di andare in Europa e aprire un confronto. Perché ho aperto questo file su questi parametri? Ma Augusto, scusami un attimo, in pochi istanti, perché dopo devo dare la linea al giornale radio. Ma Marina Berlusconi è adatta secondo te a fare politico, o è meglio Barbara Berlusconi? Ma secondo me, diciamo, la politica è una passione. Se Barbara Berlusconi o Marina Berlusconi... Ma secondo te, secondo te, chi ce l'ha? Non è che scelgono, nel senso, lì bisogna vedere intanto la volontà, diciamo, delle persone. Vabbè. Perché chiaramente se ti butti dentro un'avventura del genere devi essere molto motivato. Cruciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Cruciani. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Senta, scusi, è entrato adesso uno che... Benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Perché non fate un bello spot con una famiglia? Ah, bellissimo. No, diciamo che noi abbiamo una cultura vagamente differente. Per noi, in che senso, scusi? Noi il concetto di famiglia sacrale rimane uno dei valori fondamentali dell'azienda. La salute, la famiglia, il concetto di famiglia. Cioè, non fareste mai uno spot? Il concetto, no, non lo faremo, perché la nostra è una famiglia tradizionale. Continui. Continua a suonare. Se gli piace la nostra pasta e la nostra comunicazione, la mangiano. Se non gli piace e non ci piace quello che diciamo, faranno a meno di mangiarla e ne mangeranno un'altra. Ma uno non può piacere sempre a tutti, perché piacere, cioè, a tutti non farebbe mai uno spot. Lei non farebbe mai uno spot con una famiglia omosessuale seduta a un tavolo? No, non lo farei. Non sono Frocione, non mi chiamo Frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Beh, bisogna dire la verità, caro Parenzo, questa polemica, questa bufera, chiamiamola così con un termine calcistico orrendo, ridicolo, come bufera, è diventata una bufera internazionale, ne parlano tutti, qualcuno addirittura dice negli Stati Uniti che gli attori collegati al marchio Barilla dovrebbero addirittura rinunciare ai loro spot, rinunciare ai loro compensi, ritirarsi, ritirare la loro firma, ritirare il loro volto. Ma che vuoi? io posso anche dire una follia, è una cosa ridicola, però è così, accade nel mondo della comunicazione oggi, no? D'altra parte, se al signor, signor Marina non gli piacciono i broci, che devi fare? Cioè, no? Intorno c'è un mondo che ha già tutto. La Barilla ha tutto il diritto di dire che la pasta Barilla è solo per eterosessuali, a parte che non ha detto così. E noi abbiamo tutto il diritto di dirgli di andare a quel paese, si scrive, no, su. La cosa bella è che lui ha detto, hai fatto bene a riproporre questo nastro, questo nastro, sì. Che lui in verità ha detto una cosa incredibile, se non gli piace la mia pasta, se ne mangiano questi altri, se mangiassero un'altra, questa è una roba pazzesca. Qualcuno dice che invece ha avuto un gran coraggio, perché ha affermato, ovviamente, quelli che sono di solito contro le coppie omosessuali, contro i gay, contro il matrimonio, dicono invece, tra cui per esempio Buonanno, il mitico Buonanno, good. Beh, questo però, questo non stai facendo un buon servizio, signor Barilla, che già ha i suoi problemi. Cioè, se tu citi il signor Buonanno, no? Sì, il signor Barilla, che già ha i suoi problemi internazionali, good pare, as all, good as all. Non è un buon soccorso quello del signor Buonanno della Lega, non è buono, ecco. Che dice, da questa, da oggi in poi mangerò solo pasta Barilla. Ecco, distrutto il marchio, distrutto un brand internazionale. E devo dire, gli altri marchi salgono sul carro, come dire, cercano di approfittare, per esempio la Buitoni, a casa Buitoni c'è posto per tutti. Vabbè, ma che vuol dire? Non è che quello ha detto che gli eterosessuali e gli omosessuali non devono mangiare la pasta? Si dice che la pasta Buitoni si candida a diventare la pasta dei greci. Si candida a diventare la pasta dei froci, pure la Garofalo, le uniche famiglie che non sono Garofalo sono quelle che non amano la buona pasta. E allora fatelo, e allora se avete il coraggio, cari Garofalo, cari Buitoni e questi che approfittano dei momenti di difficoltà, fate di un loro spot. Fate lo spot con una famiglia gay. È pieno il web, ne hanno create di straordinarie di pubblicità in queste ore, di finte pubblicità anche bellissime dal punto di vista televisivo. Fatelo se avete coraggio, Buitoni, Garofalo, fate una pubblicità con una famiglia frocia. Ruggisce tutta la notte. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Con una dura nota Napolitano avverte il PDL, assurdo evocare il colpo di Stato, inquietanti le pressioni per avvicinare lo scioglimento delle Camere. Brunetta e Schifani però insistono, il golpe è una realtà e parte la raccolta delle firme per le dimissioni dei parlamentari. Letta pronto a chiedere un chiarimento sulla tenuta della maggioranza al suo rientro in Italia, faremo il punto in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. I democratici del PDL minaccia inaccettabili, Epifani, siamo in pieno accordo con Napolitano, ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il costo della crisi, se cade il governo, inevitabile la seconda rata dell'IMU, a rischio il blocco dell'IVA e l'anno prossimo oltre 9 miliardi di tasse in più. Il governo blinda la rete Telecom, in arrivo poteri speciali di intervento se la sicurezza è a rischio e nuove norme per imporre agli spagnoli l'offerta pubblica di acquisto. Nel relitto della Concordia trovati alcuni resti umani, l'esame del DNA dirà se appartengono ai due dispersi, l'attesa dei familiari, Gabrielli, quasi un miracolo. Iniziamo subito, Emanuele da Milano. Buonasera, Emanuele. Buonasera. Dica. Vorrei solo dire una cosa, che sono solidale con il dottor Barilla e con la famiglia Barilla. Prima di aggiungere un'altra cosa, di portare un po' più rispetto a questa famiglia, perché questa famiglia è stata motivo di orgoglio per noi italiani che lavoriamo. Vabbè, ma nessuno sta dicendo che sono dei criminali, si sta giudicando, si sta riflettendo, ci si sta scannando su una frase, su alcune frasi pronunciate da Barilla. Non è che stiamo dicendo che è un criminale che va arrestato, abbia pazienza, Emanuele, che me ne frega che lei dice bisogna avere vicinanza e solidarietà, su. La ragione sta nel mezzo. E allora, per l'amor di Dio, tutti i diritti civili e due omosessuali, qualsiasi diritto che spetta a loro, la pensione, tutto quanto, però per piacere, io parlando di famiglia, voglio sapere chi dei due muniti di 30 centimetri di pene e di un seno in plastica della quinta osa chiamarsi mamma. Pretende di adottare un innocente per fargli vedere quanto è bello e libidinoso rimestare il proprio pene nella merda. Vergognati, la dica al suo amico lì, la figlia. tavola l'edizione in miniatura di God Lerner, te lo dica che ha voglia di passare 50 anni a respirare aria di Deventano, oramai nessuno col culo, glielo dica che ci vuole rispetto per la famiglia e che qui si sta passando ogni limite della decenza, addirittura non si può più dire quello che si pensa, ma volete scherzare? In che nazione di coglioni siamo finiti? In che nazione di coglioni siamo finiti? Il lavoro ci vuole! Nessuno parla di gente che si suicida! E parlate di froci! Vergognatevi tutti! Vergognatevi! Ho finito! No, frasi, scusi un attimo, Manuele! Quel coglione lì di tacere che fa bella figura! L'edizione in miniatura di God Lerner! No, scusi un attimo! No, aspetta un attimo, fermo tutto, Michele, io voglio capire la storia dei 30 centimetri, scusa, non ho capito bene la storia dei 30 centimetri, me la spieghi? La gente ha capito quello che ho detto, no, tergiversate le cose, non me ne frega un cazzo, quello che mi meraviglia che una persona seria come il presidente di Confindustria sì, sa sopportare due personaggi squallidi. Quali siete voi? No, scusi un attimo, i 30 centimetri di cazzo non l'avevo capita bene, fatemela risentire dopo. Ma no, questo non ho capito bene anche cosa ha detto, che sono una miniatura di God Lerner. Vabbè, tu ti sei concentrato sulla miniatura di God Lerner, questo ha detto delle cose incredibili, stava dicendo delle cose pazzesche e ti sei concentrato su questa roba qua. Ma scusa, aspetta, ha detto delle cose pazzesche, richiamatemelo dopo, eh. Dove c'è Barilla, c'è casa. Zanzare, gli trovi in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dire a te, più triste in città e se no dormire. Zanzare, pomate, cipro nella mano, l'urca e niente fa. I gay possono fare quello che vogliono senza disturbare. Guido Barilla. Lo farei, ma non per mancanza di rispetto agli omosessuali, che hanno diritto di fare quello che vogliono senza disturbare gli altri, ma perché non la penso come loro e penso che la famiglia a cui ci rivolgiamo noi è comunque una famiglia classica, dove tra l'altro la donna, per tornare all'argomento di prima, ha un ruolo fondamentale, che è la madre, che è il centro concettuale. Riposare mia stanza a Oliviero Toscani, non mangio più la pasta Barilla. Oliviero, pure tu caschi in queste cose, Oliviero, dai. Se il Barilla dice una cosa di vergognosa, gli dica che non solamente gli omosessuali non mangeranno Barilla, ma la mangio più neanch'io. Alcuni della comunità gay, come Imma Battaglia, dicono che Barilla potrebbe essere un omosessuale represso, altra cretinata. Senta, scusi, è entrato adesso uno, benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni, e tu che sei un po' frifri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui, continui a suonare. Non sono frocione, non mi chiamo frifri, sono commissario e ti faccio un culo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, sapevo. Con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, tu sei ricchione. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza, che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Allora io voglio capire, Emanuele, amico mio, ma perché sei impazzito così? Vabbè, Pierluigi da Milano, dai, Pierluigi da Milano. Buonasera. È cascata la linea, dai, Pierluigi, tu. Buonasera Cruciani, buonasera David, buonasera. Buonasera ai radioascoltatori. Niente, allora, Volevo parlare un attimino. Pronto? Ma amico mio, ma lei è in linea? Buonasera, ah, buongiorno, scusami, buonanotte. Scusami. No, allora, sono Forza Italia, Pidellino, sono incazzato nero. Voglio dire ai miei amici, sì, andiamo alle elezioni. Anzi, sono un verdiniano di ferro. Abbiamo Verdini. Tu sei verdiniano di ferro? Sì, ma tu sei bagato in testa, sei malato. Verdiniano di ferro. Io capisco, io ho grande rispetto nel Verdini, ma uno che dice verdiniano di ferro. Ma preso e ricoverato. Ma vai ricoverato, amico mio. Ma devi essere ricoverato. Ma dopo Berlusconi, Verdini è la mente, è il massimo. Ma ho capito, ma uno non si può dire. Io, per carità, rispetto, ma uno che si dice verdiniano deve essere preso e ricoverato all'ospedale. Ma nel senso che vogliamo le elezioni, non vogliamo Quagliarella, Lupi. Ma Quagliarella è il giocatore della Juventus, quello è Quagliariello. Vabbè, come si chiama lui non ci interessa. Questi vogliono la poltrona, invece noi vogliamo le elezioni. Tu siamo vuoi primi, elezioni. Ci stiamo prendendo tutti i voti di Casini, stanno ritornando tutti da noi. È il momento giusto. Vabbè. Se non li facciamo adesso le elezioni, a Verdiniano. A risentirci. Manuele da Milano è quello di prima. Manuele? Dica. Allora, ma sei impazzito? Non ho capito. No, non sono impazzito. A proposito, senza tante storie, mi dite dove, come, quando vengo lì da voi e dopo ce la spieghiamo bene la cosa. A che fare? Che vuoi venire a fare da noi? Non sono dette da un pazzo, ma da uno che innanzitutto, per favore, al signor Parilla portate rispetto, perché lui ha portato il lavoro in tutto il mondo. Vabbè, ma lascia perdere questa cosa qui. Non ho capito la storia dei 30 centimetri. La storia di... Se le vostre cazzate fanno anche un solo operaio in meno alla Barilla, siete da prendere a calci in bocca. Avete capito? Perché in un momento come questo fate i cazzoni. A me vi sento tutte le sere quando torno a casa. Non me ne frega niente. Lasciate stare il lavoro e la famiglia. Perché sono due cose tante, sì, su cui questa nazione è nata. Avete capito, coglioni o no? Parenzo, rispondi tu, dai, ti prego. Voglio capire questo. Ma intanto aspetta. Lavoro e famiglia. Aspetta, fermo una. Coglioni o no? Aspetta. Mi chiamate, vengo da voi. Sì, almeno ci guardiamo negli occhi. Ma dove vieni? Ma dove vai? Come volete, perché io ho 70 anni. E chi se ne frega? A prendervi a calci il culo. Ma che prendi a calci? Ma che ti facciamo? Se vieni... Ci metto un secondo. Ma dove? Se vieni qua davanti ti chiamo... Sbagliato. Aspetta un attimo, vuoi parlare con Parenzo o no? Ho chiuso, mi chiamate e ci guardiamo negli occhi. Ma quale? Ma chi ti vuole guardare? Ma chi ti conosce? Non neanche un po'. Pure quel paese, non me ne frega niente. Come toccate il lavoro, mi avrete sempre con il fiato addosso. Ma mi puoi spiegare? Mi puoi spiegare una cosa, Emanuele? Abbassato, questo non è capace di confrontarsi. Comunque diglielo. Richiamalo un attimo. Ma volevo dirti questo, va chiamato Buonanno lì. Ha fatto questa cosa vergognosa. Ha dei finocchi, ha portato i finocchi in Parlamento numero uno. Ha portato... tutto per avere una notizia sui giornali. È un numero uno. Buonanno, non mi toccare Buonanno, che è numero uno. Buonanno ha portato i finocchi, ma i finocchi, nel senso i legumi, là, gli ortaggi, come cavolo si chiamano, le verdure, in Parlamento. Ogni volta che. Nel giorno della vicenda Barilla, capito? Per finire sui giornali. Perché siccome questo qui non fa un cazzo, da dirlo. Rissa sfiorata alla Camera. Aspetta, rissa sfiorata alla Camera tra Mattarelli, Sell e Buonanno che espone sul banco un finocchio durante discussione sul caso Barilla. A parte che io credo che il fatto che in Parlamento si sia discusso del caso Barilla in Parlamento. Ma non è possibile, dai, su, non è possibile. Adesso accuseranno la Zanzara di aver fatto perdere tempo alle istituzioni. Dai, su, Buonanno, lei che esibisce un finocchio in aula sul caso Barilla. Ma chi ha introdotto in Parlamento il caso Barilla? Chi l'ha introdotto è da ammazzare. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito, ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. E non mi mordere il dito. Walter, provincia di Pordenone. Buonasera. Eccoci qua, buonasera Cruciani. Intanto mi stavo sganasciando dalle risate a sentire che è arrivato in Parlamento. Dai, Alessandro Zan, deputato di SEL, interviene in aula sul caso Barilla. Buon anno, deputato leghista, agita un finocchio. Ora, chi è meglio, chi agita un finocchio o chi parla in Parlamento del caso Barilla? Io non ho molti dubbi, non ho molti dubbi, almeno quello fa show. Se abbiate pazienza, sì. Dai, Walter, su. Vabbè, comunque, allora, sempre su questo caso Barilla, a me praticamente ha colpito la dichiarazione del dottor Barilla circa la centralità e la sacralità della famiglia, al di là del fatto che poi sacralità della famiglia, non so, evidentemente sono considerate sacre quelle che mangiano la sua pasta, che peraltro è mediocre, quindi mi piaceva poi capire un attimino… No, vabbè, pasta mediocre, adesso la pasta Barilla, ma pasta mediocre, mediocre. Lei pasta mangerà mediocre. Un'altra pasta, no, c'è un sacco di gente in tutto il mondo che mangia la pasta Barilla ed è soddisfatta, dai, adesso non esageriamo, su, la pasta mediocre, dai. Vabbè, ci si può informare. Vabbè, a lei non piace, chi se ne frega, no. Dai. Comunque, il concetto di centralità della donna di cui abbiamo sentito nell'intervista di ieri, vorrei capire come si esplica, forse si esplica con la figura di Banderas, che è isolato in un mulino, in un casale abbandonato, vivendo da solo, fa un biscotto alla volta con la sua gallina, e lì mi piacerebbe anche capire il signor Banderas in quella situazione lì, dovendo passare tutte le sue giornate e nottate appresso al forno e alle uova della sua gallinella, come si allieta. No, però, il signor Barilla, poco prima di fare le affermazioni che ha fatto sulla vicenda degli spot omosessuali, ha detto una cosa sacrosanta, cioè che il presidente della Camera Boldrini non può permettersi di rompere le balle, ovviamente non ha detto così, questo lo traduco, di rompere le balle sulla vicenda degli spot della donna che serve a tavola, eccetera. Non è sua competenza, addirittura ha detto che è patetica, poi manderemo tutto in onda perché questa cosa qui ce la siamo dimenticata, e su questo aveva ragione al 100%. Dopodiché ha parlato degli omosessuali, degli spot omosessuali, secondo alcuni ha fatto uno scivolone commerciale. No, anzi, secondo alcuni, secondo tutti. Infatti è preoccupatissimo soprattutto per quello che può succedere all'estero. Va bene, dove andiamo? Roberto da Macerata, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Lorenzo. Ciao, senta, sulla vicenda Barilla, io di mestiere faccio pubblicitario. Allora? Sì. Gestisco budget pubblicitari. Sì. Le parole di Barilla non mi sono affatto piaciute, insomma, come persona, non assolutamente, insomma, il fatto di attaccare i gay, eccetera, una cosa sbagliata anche sul piano commerciale, credo. Allora? Si potrà avere delle ripercussioni. Però da una parte non mi piace neanche tutta l'ipocrisia da parte di molti pastai italiani che adesso dicono che avrebbero fatto avrebbero fatto una pubblicità con una famiglia gay. Guardi, io sono etero, ho tanti amici omosessuali, non ho nessun, per me una famiglia è dove ci si vuole bene, al di là con chi, cioè, si se lei vedesse in televisione un'immagine, peraltro ne stanno uscendo di inventate, di pubblicità straordinarie, con un uomo o una donna, a seconda dei casi ovviamente, servita a tavola da un altro uomo o da un'altra donna, le farebbe impressione, magari con un figlio accanto, cioè una pubblicità con una famiglia diversa da quella tradizionale? Assolutamente no. Non le farebbe nessuna impressione. Suggerirebbe ad un'azienda, suggerirebbe ad un'azienda, lei che fa pubblicitario, di puntare su questo tipo di pubblicità, sì o no? Allora, se devo essere sincero, se l'azienda mi dà tot milioni di euro a gestire, in quel modo non la faremo, perché le spiego subito. Noi parliamo, ma siamo in uno stato che ancora non ha sancito quello che può essere un'unione tra due uomini o tra due donne. Vabbè, ho capito. Dove c'è una presenza non consigliere, della Chiesa non consigliere, ancora molto forte. Non consiglierebbe una cosa di questo tipo. Vabbè, non ho capito. Ma infatti nessuno dice che Barilla è obbligato. Io da questo punto di vista lo appoggio al 100%. Al 100%. Beh, un grande ospite, grande ritorno alla Zanzara dopo tanti anni, caro Parenzo, te lo sei perso l'altro giorno a Trieste, dove ci hanno premiato anche lei, hanno premiato tutti in realtà. Platinette, ciao Plati. Buonasera, ciao Giuseppe, quanto sei buono, scusa, sai, te lo dico subito. Sei un rigatore della Barilla ai tempi d'oro. Adesso più senso del rigatone, ma ogni volta che lo chiamo al telefono, ogni volta che ci sentiamo, contiamo poche volte, purtroppo, ma perché Platinette un rapporto lo vorrei chiedere, specialmente quando finisci il programma. Mi dice Mauro, mi dice ti posso, vabbè, non si può dire così in maniera così, ti posso sedurre, ti posso toccare, che, quando è che ma facciamo una cosa insieme? Ma se non aspetta altro, finiamola con la pantomima, dai. Ma che non aspetto altro, adesso non esageriamo, su, dai. Allora, io vorrei capire una cosa da Plati, che fra poco ritornerà a Radio DJ il weekend con un suo programma, sono contento, grazie. Sono contento di questa cosa, noi non ce ne frega niente di fare pubblicità agli altri, perché però, trovo una cosa ridicola, il fatto che quando uno invita una persona, che fa nella vita? Sta per iniziare una nuova trasmissione su Radio DJ il weekend, seguitela perché è un mio amico, gli voglio bene, vabbè, a parte questo. Ma tutto va bene, tutto è retorico, ma va bene uguale. No, ma non è retorico, per niente, lo sai benissimo. Scusa, senti, se mi dici retorico, mi stai sul cazzo, perché in realtà non lo sai benissimo che non è retorico. Tesoro, l'hai detto tu, mi stai sul, e poi dopo se ci arrivo non impressionarti della... Ci potresti finale, arrivare, ci potresti vabbè, arrivare vabbè. Solo in una situazione estremamente complicata, estremamente complicata. Se mangiassimo una pasta insieme, ad esempio. Beh, adesso questo è troppo facile, troppo facile. Scusa, stai dalla parte il boicottaggio, dimmi subito il boicottaggio. Tu che sei, come dire, una delle icone omosessuali icone, in Italia. Troppo, beh, ho capito, però insomma. No, allora, da una parte mi sembra che quella di Guido sia pure, lo chiamo Guido perché essendo parmigiano, quindi un concittadino, insomma lo conosco. Mi sembra un po' la retorica pura di provincia, una sparata del genere, seguita peraltro oggi da scuse di varia natura, per cui mi sembra una presa di posizione talmente prevedibile, talmente retorica, da non dovere necessariamente suscitare una peraltro prevedibilissima reazione da parte dell'associazione omosessuale via. Quindi nessuna sorpresa né da una parte né dall'altra. Beh, no, sorpresa dal punto di vista della comunicazione, forse sì, cioè non è che uno che ha un grande... Guarda, intanto ha fatto una promozione al prodotto in genere, mica differente, perché, insomma, no, la Barilla, che è peraltro americana da un po' di tempo, ha nella sua strategia, forse, non so se Guido era consapevole di quello che dicesse nei termini delle reazioni possibili, fatto sta che le successive scuse hanno fatto diventare Barilla il marchio più chiacchierato di queste. Beh, però questo, come sai, all'estero, negli Stati Uniti, eccetera, in particolare, non può anche essere negativo, cioè ci può essere una ripercussione negativa a livello. La scusa successiva, come avviene per molti politici che fanno dichiarazioni e il giorno dopo le smentiscono, potrebbe essere una pezza, ma in realtà potrebbe anche essere frutto di una strategia, non lo so. Senti, ma il boicottaggio, dimmi la verità, il boicottaggio è una stronzata, dai. Più che una stronzata, è una presa di posizione eccessiva. Uno faccia quello che gli pare, omosessuale o meno. Io prima che frocio finocchio mi sento cittadino, poi deciderò se la pasta è buona, francamente è un po' collosa, diciamoci la verità. Cioè quella Barilla, no? Dici? No, ce ne sono altre che tengono un po' di più la cottura. Non vorrei che dovesse agire sempre per partito preso, è una dichiarazione infelice, ma come tale la prendiamo e basta, non ci farei su sto castello in aria. Mi viene soltanto in mente, pensando alla generazione precedente di Barilla, che il papà, che suo papà Pietro, beh, che era un grande, Latin lover, anche un grande Latin lover, ma anche un grande amatore dell'arte, c'è questo museo vicino a Parma, cioè non avrebbe mai fatto, tu dici, una cosa, esatto, che non credo. Guarda, io ricordo che stavo alla radio a Parma ancora quando morì Pietro, e mi toccò di fare la diretta dei funerali. Tu pensa a una diretta dei funerali alla radio, cosa poteva significare? E con uno schermo che però avevo davanti, dove vedevo le riprese davanti al Duomo di Parma, arrivò la Vanoni, no? E allora questo fa della Vanoni, di scultori, di artisti, allora... che andava sulla area di Barilla. Barilla era talmente discreto nella sua presa di posizione, avendo peraltro generato un'azienda con un contratto meraviglioso. Io ho avuto anche una storia con un ragazzo che lavorava in Barilla. Ah, tu hai avuto una storia con un ragazzo che lavorava in Barilla? Ma con dirigente? Certo, ma sarà un operaio, un operaio sicuramente. Certo, a te piacciono, a te piace la gente del popolo, non i dirigenti. Il rustico, i rustici, rustico, i rustici. Un pastaio rustico. Un pastaio rustico, con le mani grosse, no? Magari con le mani grosse un po' rovinate. Non solo quelle, perché se no a noi le misure non sono mai piaciute. Amico mio, ti piacciono le misure grosse? Dai, non buttare subito su quella roba là. No, sei tu che l'hai detto, sono stato con una Barilla. Vabbè, ma un conto è un accenno, un conto è una sottolineatura. E che in realtà, ad esempio, nello spaccio intero della Barilla, i dipendenti avevano la possibilità di fare una spesa a prezzi bassissimi. Contratto aziendale che prevedeva, ad esempio, vabbè, per il turno della notte. Ma che c'entra adesso? No, c'entra, perché Barilla aveva fatto delle rivoluzioni industriali all'insegna della discrezione, non se ne è mai parlato. Ah, tu dici, beh, no, ma la comunicazione non era la comunicazione. È la discrezione che ma la comunicazione non era come, non c'era la zanzara prima, scusami, No, cioè... però perdonami, c'era Mina che faceva la testimonial della Barilla. Ora, comunque qualcuno oggi... dice, No, aspetta solo un secondo. Dimmi. Chiedo oggi se Mina, come commenterebbe Mina, ad esempio, le dichiarazioni di Barilla, essendo stata lei una testimone al Barilla per tanti anni, sì, ed essendo notoriamente la icona numero uno dei gay italiani e non solo italiani. Questo mi interessa. Beh, questo è interessante, sì. Mina, che sta, che è considerata un'icona gay. Guarda, recupera se ce la fai prima della fine della trasmissione. Uno dei caroselli Barilla, sono disponibilissimi in YouTube, lo trovi subito. Sì. Con le dichiarazioni di Mina, le dichiarazioni, il climb pubblicitario di Mina dell'epoca, erano meravigliosi. Allora, sì, da persone del genere forse, non da me, ma potrebbe, vabbè, venire fuori una risposta più interessante. Senti, Plati, ecco. Plati, ma tu continuerai a mangiare pasta Barilla, sì o no? In questo momento francamente no, perché non sono la Barilla, ma sono a dieta. Vabbè, ma... dove la caloria, ma a dieta, t'ho visto l'altro, quelle delle proteine, niente. Ma t'ho visto l'altro giorno più grassa che mai, ma che stai a dire? Ma tu ti sei sbagliato, tesoro, perché hai l'occhio sbilenco, chissà chi guardavi. No, sono, guardavo, ma che magrissima, quando mai, dai, su. No, però non, però non avrai problemi andare al supermercato e prendere la pasta Barilla quando smetterai. Ripetisco, in questo periodo non sto comprando pasta per questioni mie di natura, appunto. Però non boicotto la pasta Barilla. Non di principio, ecco. Ma no, non di principio, dillo. Posso farlo, punto. Ma dillo chiaramente, ma non scusami, staccati non da staccati da questo politicamente corretto, ma di tutto. Ma mi sono già staccato molte volte, sono l'unica travestita notoriamente non disfitta. Appunto, su, dai, dillo, basta, non boicotterò la pasta Barilla, non, non la boicotterò, ma non la sto mangiando e non la mangerò per molto tempo. Ma è quello per motivi. I clienti sono già fuori, punto. Per motivi di dieta, per motivi di dieta. Ma perché non ti proponi? Però ad esempio la Barilla ha fatto una rivoluzione in questi mesi, secondo me epocale, quando ha dato la possibilità a una catena di fast food mondiale come McDonald's di inserire la pasta nel menù McDonald's. Quella è una vera rivoluzione, quello mi piace. Questa dichiarazione di Guido molto meno. Parenzo, che stavi dicendo? Non ho capito. No, dico che secondo me Platti dovrebbe proporsi come testimonial della perché no? Mi non va bene, perché significherebbe che la pasta è in grassa, non va bene. No, tu dovessi essere lì. La pubblicità da una smart, no? Se c'entra quella, c'entrano tutte. Guarda, dovessi proporti andare lì da Guido e dire: Guido, ti faccio uno spot io e mangio solo pasta e piselli, così bellissimo. No, per favore, no. Guarda, sul Corenzo non ci sto. Mamma mia, Parenzo, sei caduto veramente in basso. Veramente in basso. Ma io non lo so. Una cosa agghiacciante. Non è un'icona gay, Parenzo, mentre tu, Cruciani, lo sei e lo sai. Lo so. Lo sai. Quando si ha quel petto lì meraviglioso, quel ventre, quella tartaruga davanti, diventa poi difficile ragionare. No, hai capito. Ciao. Buona pasta a tutti, ciao. Ciao. E parlate di froci! Vergognatevi tutti! Vergognatevi! Prima di tornare con gli ascoltatori qui alla Zanzara, 800 24 00 24, segreteria telefonica. Parenzo, o stai sul torpedone o stai al cesso, ma te squagli in cagarella. Fa una cosa, prendi un limone. Prima di tornare con gli ascoltatori qui alla Zanzara, 800 24 00 24, segreteria telefonica. Parenzo, o stai sul torpedone o stai al cesso, ma te squagli in cagarella. Fa una cosa, prendi un limone, te lo metti al culo e così vai tranquillo per tutta la giornata. Ciao! Bravo Guido Barilla, condivido tutto ciò che ha detto con buon senso, onestà e molto garbo. Finalmente una persona normale alla Zanzara. Sapete come fa il campanello di casa della Chiesa? King Kong. Noi italiani non siamo razzisti né nei confronti della Chiesa né nessun altro. Parenzo, tu sei un coglione, non ti puoi permettere di definire razzista me che sono italiano, anche tu sei italiano, noi non siamo razzisti, ma razzisti di che cosa? Cruciano, non si manda a fanculo la gente dandogli del lei, non si dice vada a fanculo, un bel vaffanculo, vai a fanculo. scusa se, se mi permetto di correggerti. Caro Cruciani, se potrei dare il mio modesto giudizio sul modo come conducete la trasmissione, tu mi ricordi l'anticristo, Parenzo invece il falso profeta come Maometto. Volevo dire alla signora presidentessa Boldrini che quando si ama non solo si è disposti a servire a tavola, ma anche a lavare i panni, a fare tante altre cose umili, perfino a dare la propria vita per le persone che si amano. Se lei non ama, se lei non è in grado di fare queste cose, nessuno glielo chiederà. Cruciani è un giornalista di merda, che fa una trasmissione, lo deve licenziare il direttore di Solo 24 Ore, perché non può fare una trasmissione di questo, è un paraculo. Ciao Beppe, al mio paese, qui in Sicilia, in provincia di Palermo, la quasi totalità, se non tutti, coloro che votano PDL hanno le corna. Vi ricordo il numero per mandarci i vostri messaggi, mi raccomando, ancora non siamo soddisfatti, vero Parenzo? Ancora non siamo soddisfatti? Mi pare che si concentrano ancora molto su di noi e meno sulle delazioni riguardanti i vicini, amanti, comunque va bene. Più delazioni, sputtanate il vostro vicino, sputtanate la persona che avete accanto, non confessate, ad esempio, i vostri tradimenti. Vi faccio un esempio, cari sì. amici, 30 secondi. Sì. Siete sul posto di lavoro, avete una persona che è più brava di voi, beh, fate una bella delazione, dite ad esempio che ha rubato, anche se non è vero. Oppure insinuate il dubbio che questo qui metta le corna alla moglie. Cioè, create dello scompiglio vero. Oppure vi faccio un altro esempio, cari ascoltatori. Potete chiamare lo 02, ripeto, 02 46 52 40 10, 02 46 52 40 10 e tranquillamente raccontare quello che avete visto l'altro giorno. Magari avete visto il vostro vicino di banco andare in bagno e fare delle cose turpi, oppure avete visto il vostro vicino ammazzare un extracomunitario per strada, avete visto il vostro vicino fare delle cose terribili, oppure dite delle cose false. Noi raccoglieremo tutta questa massa di fango che arriva, la rielaboriamo a modo nostro. Non vi preoccupate, vi terremo lontani dai guai. Dai. Giuseppe, provincia di Vicenza. Pronto? Dica. Io. Ciao, buonasera. Pronto? Sì, Giuseppe, provincia di Vicenza, andiamo. Ciao, volevo suggerire la che è passata per televisione un po' di tempo fa e appunto riguardava omosessuali, eterosessuali, tant'altro, lesbiche e così via, e mi sembrava molto bella, molto raffinata, molto sobria, e nessuno ha fatto nessuna discussione in merito, e se la fa l'IKEA non vedo perché non la possa fare la Variglia, insomma, la Varilla. Beh, l'IKEA si rivolge ad un pubblico, non lo so, potrebbe farlo anche la Varilla. Era ben fatta, se ti ricordi, era una cosa molto bella. Poi volevo dire un'altra cosa riguardo al nuovo programma che si farà dal 30 settembre, se non mi ricordo, cioè non riesco a capire come avete fatto a mettere dentro una trasmissione con Minoli, cioè una radio giovane come Radio 24 mette un direttore, cioè il direttore mette Minoli a fare la trasmissione dalle 9 alle 11, Giovanni Minoli, ma mi sembra veramente una gran cacchiata, voglio essere sincero con voi perché ascolto Radio 24 tutto il giorno, perché sono in macchina sempre, faccio il rappresentante, ma mi sembra veramente una stronzata. Caro Giuseppe, le persone non vanno giudicate né dall'età, né da quello che hanno fatto prima, né da quello che sono state nel mondo della comunicazione, nel mondo del giornalismo, nel mondo dei media, ma da quello che fanno. A lei che gliene frega quanti anni ha Minoli. Guardi il programma, senta il programma, anzi lo ascolti, assolutamente lo ascolti ogni mattina dalle 9 alle 11 e dopo dà un giudizio, lasci perdere la scelta, vecchio, giovane, non ha importanza, le persone vanno giudicate per quello che fanno, non per l'età. Ha capito? Sabrina, ma, provincia. Ma scusa, ma ti sembra che ci deve essere bisogno di Giovanni Minori per fare la televisione su Radio 24? Ma mettete dentro il nome, è pensionato, lasciatelo in pensione, ma che cavolo, dai. Abbi pazienza. Poi anche il nome, anche il nome della trasmissione, Mix 24, una fantasia assurda. Scusa, è diventato un esperto di rada. Scusami, Giuseppe, abbi pazienza. Io non credo che tu sei un creatore di programmi, sei un ascoltatore e vai rispettato. Ti do questa indicazione. Ti do questo consiglio. Ascolta questa trasmissione del lunedì dalle 9 alle 11 come ascolti noi. Ovviamente ascolta noi, se devi scegliere ascolta noi, però se proprio devi seguire la mattina, va benissimo, dalle 9 alle 11 ascolta e dopo dai un giudizio. Se non ti piace, non ascolta. Ecco, così si fa il mercato. Non c'è un altro tipo di valutazione possibile. Quindi il mercato, se ti va, lascia perdere. Che ti importa a te quello che è stato, l'età, non l'età? Ascolti, ti piace? Resti lì, non ti piace? Spegni. Sabri, ma perché devi avere pregiudizi? Perché devi avere pregiudizi? Ma a prescindere, mettete dei giovani, fate lavorare qualcun altro, per esempio i soliti che girano intorno tra una cosa e quell'altra. Non riesco a capire perché l'Italia è sempre e sono sempre i soliti. Cazzo, tu hai fatto la trasmissione 3 anni fa, sei diventato la voce della radio, hai sbagliato. Perché se ci fosse stato chi? Che ne so, come si chiama quell'altro giornalista che è andato da Presidente della Repubblica? Mettiamo sempre i soliti, mettiamo tipo Baudo a fare l'emissione tua, ma che senso ha? No, però scusami Giuseppe, abbi pazienza. Ma è una roba diversa. Adesso non stiamo qui a fare, non gliene frega niente alle persone che ci stanno ascoltando. Giovanni Milone è un grande professionista, fa una trasmissione adesso alle 9:11. Che significato ha adesso stare a discutere su quello che è stato, sul perché una trasmissione non viene data a un giovane? A me questa discussione sui giovani e i vecchi la trovo ridicola. Uno va giudicato per quello che è, per quello che fa, anzi, non per quello che è, per quello che fa. Una trasmissione interessante? Bene, premiata dagli ascolti? Bene, altrimenti a casa. Questa deve essere il mio unico punto di riferimento. Anna Maria da Roma, buonasera. Anna Maria? Pronto, mi sente? Sì, andiamo, su, cara. Sì, niente, praticamente volevo intervenire appunto su questo gran casino che è successo con la Barilla. Per anni ho lavorato a Londra, mi sono integrato con varie nazionalità, eccetera, eccetera, e tutto questo non esiste in un mondo che non sia l'Italia, cioè non riesco a capire. Certo, ho sbagliato. Non ho capito, scusami. Anna Maria? Roberto da Udine. Morta, Roberto. Morta. Pronto? Dimmi. Carissimo, salve, ciao. Faccio una premessa, mi ha fatto morire dalle risate, come si chiamava, Emanuele, sì. Beh, quello da Milano, sì, certo, numero uno. Sì, lo metto dentro nel top 5, assolutamente, come quello che diceva, mi fate svellicare dalle risate. Numero uno, l'ascoltatore da Milano, un po' mattoide ovviamente, ma numero uno, assolutamente. Po'. Allora? Numero uno. Ma Parenzo, dove cazzo sei? Scusa, no, per spiegarmi, dove cazzo sei, David? Io sono benissimo, sono fermo. Sei fermo, sì? No, no, ma non ti sentivo moscio. Roberto, vada. No, anzi. Sì. Roberto, vai. Ma qui siamo sui giornali di tutto il mondo e sei moscio. Sveglia, Roberto, vai. Ma sono eccitatissimo. Vai, forza. Tanti come proprio due zanzare. Vabbè, Roberto, a parte i complimenti di cui non ci frega un cazzo, vai al punto, di che vuoi parlare? Tanti punto e basta, tipo Minzolini. Va Minzolini, va bene. Perché veramente sono tutti dei paraculi di Berlusconi, non è possibile. Cos'è non è possibile? Non è possibile? Ma non è possibile che siamo vittime, cioè una nazione sia tenuta per le palle da un uomo, cioè. Vabbè. Ha dei problemi personali con la giustizia, se li risolve da soli, che non deve ricattare una nazione. Diciamo che questa storia va avanti da 20 anni, che adesso qualcuno si stupisca che le vicende personali di Berlusconi blocchino o comunque influenzino l'andamento della storia politica di questo paese, mi sembra francamente un po' ridicolo. Parlando di famiglia, voglio sapere chi dei due muniti di 30 centimetri di pene e di un seno in plastica della quinta osa chiamarsi mamma e pretende di adottare un innocente per fargli vedere quanto è bello e libidinoso rimestare il proprio pene nella merda. C'è in omaggio lo stregone Rasputin, sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Angelo da Modena, buonasera Angelo. Buonasera a lei dottore. Niente, solo una considerazione, ma ormai ne sono arrivate tante. Io invece non mangiavo pasta Barilla, comincerò a mangiarla da domani probabilmente. Sì, perché poi c'è un contro boicottaggio anche in corso. Ma infatti una cosa proprio, non uso parlarci, ma proprio da dementi. È come se io per le mie idee allora non andassi più a fare la spesa all'IKEA o non mandassi più i miei figli da Benetton. Ma cosa vuol dire? Ognuno ha le sue idee, vanno rispettate. No, diciamo, c'è un passaggio che può far discutere. No, quando lui dice che è un'auto, è un autogol clamoroso, quando Barilla a un certo punto dice... È lui stesso che lo dice. No, dice a un certo punto, se agli omosessuali non piace questo mio modo di comunicare, mangiate un'altra pasta. Insomma, questo devo dire che... No. Guardi, io lavoro nel commerciale, quello lì sono d'accordo, effettivamente. Però, a parte che le mie idee coincidono con quelle del dottor Barilla, questo però mi dà la riprova, mi dispiace che una lobby gay esiste e come. Io non sono d'accordo con fare con... Sinceramente io comincerò a comprare Barilla. Beh, si è mossa un po', scusa, ma però David, un po' che esista un movimento di opinione. Che esista un movimento di opinione che a un certo punto si mette in moto, e ti colpisce dal punto di vista mediatico, su questo non c'è dubbio. Dopodiché è legittimo che ci sia, però è vero che c'è. E dai, su. La cosa, posso fare solo una considerazione? Che guarda, io vi seguo tutte le sere, non sono... Sì, dimmi. Prima ero più d'accordo, ultimamente io sono già intervenuto diverse volte senza mai polemica. Ovviamente sono meno d'accordo con le vostre idee, in particolare con le sue. Però una considerazione al volo, io ho un concetto di democrazia particolare, nel senso che io ad esempio, gli omosessuali facessero quello che gli pare, andassero a vivere insieme, i contratti civili, il matrimonio è un'altra cosa. Non mi interessa, anch'io sono contrario alle adozioni, ero già intervenuto, io ho 3 figli di cui sono adottato. Allora... No, l'unica cosa, ma mi potete solo confermare, se siamo in democrazia, lei può uscire la mattina col naso da clown, giusto? Siamo in democrazia. Io se la incontro posso farmi una risata. Beh, posso, certo. È nel mio esercizio della democrazia. Ma che c'entra il naso, scusi, che c'entra no, il naso da clown? Siamo in società, ognuno fa quello che crede. Ma ormai si è arrivato a un concetto che se non ci si uniforma alle idee della massa che stanno andando in questa direzione, uno abbia diritto ad esprimersi. Ma guardi che Barilla, io infatti penso che il boicottaggio sia ridicolo e che Barilla ha tutto il diritto di scegliere. È come se l'IKEA che fa la pubblicità sui gay, allora io non porto più mia moglie all'IKEA perché io ho delle idee, ma che discorsi sono? A favore del boicottaggio, purtroppo, c'è da dire semplicemente questo, non è che sia a favore del boicottaggio, avrei potuto anch'io una stupidaggine mega galattica, ma siccome è Barilla stesso che ha posto il suo spot in tema di valori, per cui lui l'ha posto dicendo che i valori del marchio che lui rappresenta sono la famigliola, la mamma che serve a tavola, i bambini, cioè attribuisce lui allo spot un valore. Io adesso chiedo ad esempio alla Buitoni o alle altre marche, visto che si dimostrano di essere così friendly, perché non fanno un bellissimo spot ad esempio con dei negri seduti a tavola e dei bianchi che servono? Ecco, però io, sì, poi questi qua che cercano adesso di attaccare Barilla, la Buitoni o gli altri, avessero il coraggio di fare negri seduti a tavola, ma lascia perdere i negri, dovrebbero fare uno spot con una bella famiglia omosessuale, donne e uomini, una bella famiglia froscia, una bella famiglia froscia con i figli negri. Beh, no, adesso i figli negri, adottati negri, dici tu, adottati. Fatti adottati o in provetta con uteri in affitto. Perché tutto ci deve essere. Bello è bello fare il frocio col culo degli altri, no? Cioè, Buitoni. Aspetto anche di vedere queste pubblicità di queste altre aziende, sono molto curioso. Ma no, non lo faranno, perché adesso dicono. Non lo farà, adesso dicono, guarda, Buitoni dice: a casa Buitoni c'è posto per tutti, volendo fottere Barilla. Garofalo, le uniche famiglie che non sono Garofalo sono quelle che non amano la buona pasta. Ti confesso questo. Dai, cioè questo veramente mi fa schifo. Questo veramente mi fa schifo. Un imprenditore amico mio, di cui forse posso fare il nome, tanto chi se ne frega, che è il signor Rana. Sì. Tanti anni fa, cioè di Verona. Ma come amico tuo? Lo volevo chiamare oggi, manco mi hai dato il numero. È un amico tuo, vabbè. È un mio amico carissimo, il vecchio Rana. Il signor Rana, a Verona. Sì. Io facevo una trasmissione in una TV locale, lo invitai e lui mi disse: io non vengo, Parenzo, perché tu mi metti o a destra o a sinistra, siccome invece i tortellini li mangiano tutti, sia i comunisti sia i fascisti, mi devi mettere nel mezzo. Lui mi dice: non bisogna mai prendere posizione contro, come la mia pasta è per tutti. Quindi lui rifiutò di venire in trasmissione perché aveva paura che io lo mettessi a destra o a sinistra. Comunque so cazzi per Barilla, perché la principale rivista americana pro gay che si chiama Advocate, che si chiama Advocate. Senti, Italian pasta maker Barilla apparently has a distaste, ma io non so leggere bene inglese, poi mi pigliano per il culo. Comunque, the company's chairman told Italian radio show La Zanzara Thursday that the world's largest pasta producer will never feature gay couples in its advertisements. Stupendo. Ma vattene a zappa la vera. È entrato adesso uno. Benvenuti a sti fracioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fri fri, e dimmi un po' che c'hai da di. Continui, continui. Continui a suonare. Non sono fracione, non mi chiamo fri fri, sono commissario. E ti faccio un culo così. Scusate, continua dottore, a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Non sono ricchione, bravo, vai avanti, bene, tu sei ricchione. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Why don't you go on? Giuseppe da Torino, buonasera, Giuseppe da Torino. Certo, Advocate, Advocate. Che cita, che è una grande rivista omosessuale in America, molto molto popolare eccetera, che parte il fatto che cita La Zanzara, ma quello vabbè, insomma, abbiamo capito che c'è stato uno scoop mondiale, ma al di là di questo non me ne frega niente, anzi no, me ne frega, però no, non è questo, no, il punto, no, me ne frega, no, me ne frega assolutamente, però guardate che questo è pari al Watergate per noi, eh. No, sì, d'accordo, però adesso non bisogna crogiolarsi troppo su questa cazzata, che la gente, no, che sta ascoltando non gliene frega niente del fatto che abbiamo fatto uno scoop, vogliono divertirsi, sì, sangue e merda eccetera, però al di là di questo, al di là di questo, no, beh, il danno economico è interessante da capire, capito, il punto è questo qua, perché quando in America arriva una roba del genere, e beh, cari amici di beh, io vedo già in America, vedo già, perché sto monitorando le televisioni americane. Però devo dirti la verità, a me devo dirti la verità. Il show americano accendi sulla CBS, c'era uno ad esempio che diceva: oh no, I don't eat macaroni because in mosquito transmission it's against the gay. It's against the mosquito transmission in Italy. I don't eat macaroni, Barilla. Allora, io devo dire la verità, mi sembrano veramente degli avvoltoi questi qua della, per carità, poi la guerra è guerra, come si dice, la guerra è guerra, alla guerra come alla guerra. Marchi concorrenti. Beh, la Buitoni, la Buitoni, no, lo ripeto per l'ennesima volta, la guerra è guerra, però la Buitoni che scrive sul suo sito, sulla propria pagina Facebook, a casa Buitoni c'è posto per tutti, e la Garofalo, le uniche famiglie che non sono Garofalo sono quelle che non hanno la buona pasta. Sì, sarà normale, però adesso, adesso abbiano il coraggio di fare una bella pubblicità al tavolo con tutti i froci. Tutti i froci al tavolo, voglio vedere. Tutte donne servite, una donna servita da un'altra donna, un uomo servito da un altro, magari con un bambino accanto. Abbiano il coraggio di fare una cosa del genere, altrimenti si vergognino. È con noi Mario Adinolfi. Ciao Mario, come stai? Buonasera, buonasera Giuseppe, buonasera Davide. Allora, ciao, devo dire la verità, che dopo una giornata in cui hai twittato e scritto di tutto sul caso Barilla, che c'è da dire ancora? Beh, fatto tre tweet, no, sto scherzando, dai. Però tu a sei uno di quelli, Olfi, sei la pasta Barilla, immagino. Tu la mangi a la pasta Barilla. Olfi. Adesso da questo momento in poi, sì, achilate come si vede. E da questo momento in poi mangerai ancora di più pasta Barilla. Sempre uguale, non ho, sempre non uguale. Aderisco, sicuramente non aderisco al boicottaggio. E nemmeno al contro boicottaggio, però. Le forniture sono ampie in casa di Olfi. Però scusami Mario, la verità è che quelli che hanno promosso questo boicottaggio, io dico, alcune frasi possono essere sbagliate, non sono un po' ridicoli, cioè il boicottaggio, no, promosso, poi dopodiché, sai, la comunicazione non è solo ridicolo, c'è un pizzico anche di gravità, insomma, cioè? L'ho trovata fastidiosa, la cosa che hai letto adesso di Advocate è pesante, perché io, come sai, frequento gli Stati Uniti abbastanza, insomma, esatto, Advocate pesa, Advocate se tu fai un'operazione del genere, il danno che crei, perché questa è un'operazione creata, indotta dalla rete internazionale, diciamo così, del movimento omosessuale, il danno che crei alla Barilla è molto pesante, perché lì su queste cose c'è una ipersensibilità. Io non credo che Barilla ieri sia stato offensivo qui da te. No, no, assolutamente no, assolutamente è stato, no. È uno che ha detto una banalità, si rivolge a un paese come l'Italia, fa gli spot con la famiglia tradizionale, tra l'altro certo. Si rivolgeva la questione a Boldrini, non ha detto nulla di straordinario, adesso trovarsi crocifisso sui mercati internazionali e quelli pesano, non è un mercato banale, insomma, il mercato. Però devo dire la verità, Mario, c'è stato un passaggio un po' infelice, molti non l'hanno notato, cioè quando lui dice ognuno può fare quello che vuole, basta che non disturbino. Sì, prima. Quello era un inciso un po' fastidioso, sì, non politicamente corretto. E la seconda cosa, è quella dei valori che lui attribuisce alla pasta, quello è, perché uno no. spot è però un la polemica che leggi tu Advocate, Giuseppe, non è la polemica riguardo alla questione che indicavi adesso, la polemica che indica è non faccio gli spot con gli omosessuali, sì. Questo è il tema. Che è legittimo invece, che invece è commercialmente ragionevole, diciamo, in Italia. Ma nessuno si aspetta, nessuno si aspetta che la Barilla faccia una cosa del genere. Detto bene, non credo che vedremo gli spot della Buidoni con la coppia gay e i due assolutamente figli in provincia. Ma ha ragione Aminozzi. È semplicemente una logica commerciale comprensibilissima. Lui l'ha detta in maniera molto garbata, peraltro non è di sé, è stato come l'ascoltatore, che è stato fenomenale, ogni tanto avete rimandato. Fenomenale, sì, insomma. Fenomenale. Sì. Ma perché ha ragione Aminozzi, da noi, un paese antico ancora in cui... ad esempio i negri devono pulire i semafori, no? Non li vedi? No, non sto dicendo questo, è proprio del tutto, proprio tutto. Però quando tu dici la rete internazionale, quando tu dici la rete internazionale, scusami, la rete internazionale, che significa? Che secondo te c'è veramente una lobby gay internazionale che ti può mettere in lobby, ma è una sensibilità internazionale. Io sono in contatto con, io ho degli interessi nel poker, per capirci, insomma, non è che non sono in contatto con il sito forum 2+2 che si occupa di questi argomenti, e se una notizia importante esce sul poker italiano, dopo 3 minuti è su 2+2, che è il forum internazionale che si occupa di queste cose, perché noi gli abbiamo detto al forum probabilmente che l'argomento è rilevante. Sicuramente il meccanismo è analogo. Vabbè, però per te, dimmi la verità, secondo te esiste una lobby gay che può metterti in grande difficoltà? Che io tipo... non credo che esistano le lobby in generale, credo che esistano dei gruppi di interesse organizzati in maniera molto varia, sicuramente non è un elemento... non credibile il fatto che tra gli omosessuali italiani, dai movimenti organizzati italiani e quelli americani, ci sia un ponte di collegamento, insomma, non credo sia una cosa straordinaria. Che dico. Però dobbiamo precisare che Mario Dinolfi è uno di quelli che è stato, forse è ancora nel Partito Democratico, questo non lo so. Che sono però stato è... parlamentare del Partito Democratico, ma ho sempre litigato su questo tema. Ma devo dire che la linea del Partito Democratico è la mia, come fondo, cioè, beh, la tua adesso, la linea non c'è del Partito Democratico su queste cose, perché un po' c'è la tua linea, che è quella di dire no ai matrimoni gay, esatto. E poi alle unioni civili, cioè quella è la linea, è sempre stata la linea, e questa qui poi dopo c'è qualche fuga in avanti, ma la linea notoriamente è questa, insomma. Vabbè, che Barilla adesso come va difeso? Barilla va difeso industrialmente, intanto, secondo me oggi la sua retromarcia è dovuta a logiche di comunicazione, evidentemente, perché ripeto, è un po' deluso sta retromarcia, però, anche a me, pochino ho detto, è stato costretto, questo uno dei 3 tweet era questo, la delusione dopo aver visto il comunicato in cui la logica della comunicazione gliel'ha imposto, insomma. Credo che, insomma, hanno difeso, ormai il meccanismo è partito, speriamo che si fermi qui, ecco, io se posso fare un appello alle comunità LGBT, come si chiama? Che è un nome terribile, LGBT, è brutto, incomprensibile. Però a quelle comunità italiane, insomma, temperatelo questo tema, perché veramente se poi dovessimo avere un danno a una delle principali industrie dell'agroalimentare italiano, non abbiamo fatto niente di bello, insomma. Quindi il boicottaggio è una stupidaggine enorme, non ha detto, Barilla è una persona educata, non so se avete visto mai, insomma, dal punto di vista personale. Qualcuno dice addirittura che è stato coraggioso, tu secondo te è stato coraggioso a fare un intervento del genere? Io penso che abbia avuto, come tu sai, tu sei un paraculo, l'hai messo in difficoltà su un tema problematico su cui non era preparato lessicalmente. No, ma guarda, ti assicuro che se questa volta no, domani andrò a Matrix a parlare di questa cosa qua e racconterò qual è il retroscena dietro questa intervista a Barilla. Mi ha invitato Luca a Matrix pure a me, però purtroppo domani sono fuori, però insomma sarà interessante ascoltare il tuo retroscena, perché dal punto di vista proprio tecnico comunicazionale è un errore, dai. È un errore, non c'è dubbio, dal punto di vista della comunicazione, appena l'ho sentita ho capito subito. Tu hai capito che avevi l'osso in bocca, giustamente. Ma ti assicuro che non c'era nessuna premeditazione dietro questa roba, proprio zero, era un'intervista sulla Boldrini. La premeditazione fosse sul tema Boldrini, che era già abbastanza interessante. Sì, infatti lui su quello domani lavorerò, quello che ha detto sulla Boldrini è stato pesantissimo pesantissimo, esatto, bravo, sul bravo, presidente della Camera, giustamente secondo me, perché un presidente della Camera non deve rompere i coglioni sulla pubblicità e sulle donne che servono a tavola, pensasse a tagliare i nastri, a dire emendamento 145, emendamento 146, si voti, quello è l'elezione del presidente della Repubblica, che è un'altra cosa. Però posso dire una cosa proprio conservatrice, questo è sul ruolo della donna tradizionale, diciamo, nello spot. Barilla avesse perfettamente ragione. Loro hanno la donna come elemento centrale dello spot Barilla Pasta, per capirsi. Ma poi non è detto che quella stessa donna non vada a fare poi l'avvocato, certo, il manager. La donna manager, esattamente, non c'è nulla di strano, sì, ma sì, famiglia italiana, perché poi siamo. Io sono troppo d'accordo con sono troppo d'accordo con Dinofino, non lo devo chiamare mai, perché sono troppo. No, perché tu sei a favore del matrimonio omosessuale, quindi. No, quello è vero. Io sono non solo sono a favore del matrimonio, ma pure dell'adozione, alla grande, esatto, alla grandissima. Ciao. Dell'Italia omogenizzata. Buona serata, ciao ragazzi. Sei ancora a casa, Simo? Enrico Letta chiede addirittura la fiducia martedì 1 ottobre in Senato, dopo le dimissioni di massa dei parlamentari, dimissioni che ovviamente ancora devono essere formalizzate. Napolitano però non intende assolutamente sciogliere le Camere. E adesso voglio farvi sentire quello che dice un senatore del Partito Democratico, Mucchetti, che scriveva sul Corriere della Sera, giornalista, che secondo me giustamente dice: vabbè, se è dimesso anche il Papa, si potrebbe dimettere anche Berlusconi. Succede nella vita di dimettersi. È vero che, per carità, la storia ventennale, eccetera, però insomma, in fin dei conti, poi se si dimette il Papa, si può dimettere pure Berlusconi o no? Io me lo domando come uomo, ma chi crede di essere? È un uomo come tutti noi, è stato il leader, un grande leader politico, e va bene, ma ragazzi, se è dimesso il Papa, se può pure dimettere Berlusconi. E l'ha detto pure il Romano, ma il mitico numero uno è Bonanno, Bonanno contro la Boldrini in aula, senti. Innanzitutto mi fa piacere di vederla qua, signor Presidente, o signora Presidente, come lei piace di più. Perché ho piacere di poter parlare guardandola negli occhi, perché lei è un presidente che sta cercando di modernizzare questa Camera dei Deputati, talmente la vuole modernizzare che aumenta ancora di più le spese, quando questo paese in realtà ha bisogno invece di una politica diversa, che è quella di dimostrare invece che il palazzo è più vicino, inerente al tema di cui ci stiamo occupando. E difatti stiamo parlando anche di questo. Ogni volta che io parlo lei mi deve interrompere, mi lasci parlare, non sono un comunista come quelli, sono un comunista vero io, non sono come quelli là, sono diverso, sono contento di essere diverso. Ancora sulla Boldrini. Scusi, mi può difendere, perché quando parlano gli altri li difende, può difendere anche me? Continui e si attenga al testo, continui e si attenga al tema. Continui. Io sono un deputato come tutti gli altri. Chiaro, signor Presidente? Perché mi stanno dando del diverso, ma io sono ben contento di essere diverso da loro. Avrei dei problemi se mi sentissi uguale a loro, per fortuna. Forse se la prendono con me perché io sono un diversamente alto, ma io me ne frego, non ho mica paura di quella gente lì. Oh, devo dire che Forza Nuova ha appoggiato, un colpo micidiale questo per Barilla, caro Parenzo. Forza Nuova hanno fatto un manifesto: dove c'è gay non c'è casa, col marchio di Barilla con scritto no gay friendly, uomo e donna, uomo e donna, unica famiglia, col simbolo di Forza Nuova. Ammazzato Barilla, Cioè, quelli che appoggiano Barilla sono oggi Giovanardi, mezzo PDL, ma un marchio Forza, così Forza Nuova, Buon anno. E dai, tutto un marchio mondiale. Ma ti rendi conto? No, volevo dirti questo: il professor Taormina, forse sulla vicenda, potrebbe, come dire, no? Vabbè, questo è buono, effettivamente. Anche perché io l'ho sentito nel pomeriggio e mi ha detto: guarda, in quella pubblicità della Barilla, quella donna che serve a tavola è una droga, in verità. Ma io ho detto: no, non è vero, è una droga quella donna che serve a tavola. La mattina serve a tavola i figli, ma la sera è una droga, guarda. Bruno da Roma. Che è un bell'ambiente. Ambiente di maiali. Bruno da Roma, Bruno. È chiaro. I just want to tell you, tonight I'm with my boyfriend and the girlfriend of my boyfriend, we have a good noodles. Ma chi è questo? Tomato, garlic, prawn and squid. It was good noodles. Aspetta, fermo, Bruno, prima del delirio, aspetta un attimo. Chi è questo? Beh, aspetta. Professore? No, non è il professore, è un altro. Ma guarda, è good asshole. Ah, ecco, che persona brutta, che proprio ci dedichiamo di più come Parlamento, come istituzioni. Vabbè, Bruno, allora? Tonight with my boyfriend and girlfriend of my boyfriend, we have a good pasta, spaghetti with garlic and tomato, prawn and cioè, prawn. Tu stai dicendo che insieme al tuo uomo, del tuo fidanzato, stasera mangiate la pasta, giusto? Yes. And we have a spaghetti with the garlic, tomato, chili, prawn and garlic with the squid. A very good, delicious spaghetti, good Barilla. Barilla. Because I have only this in my home. Tu sei gay, sei frocio, Bruno? Oui, ce soir, après, avec mon petit compagno e son ami, on va manger tout ensemble des petites pâtes italiennes, s'appelle Barilla, sonne ça dans la maison, sì? Et tous les trois, après que manger ça, les pâtes et Barilla, on va faire un bon triolin ensemble. Che fate insieme? Scusa, non ho capito. Un triolin, va a fare un triolin. Che vuol dire un triolin, scusa? Un triangolo. Ah, un triangolo, ma non si dice così, secondo me. Come si sa? Je sais pas, je parle français, mais je sais pas. Un triangle. Che no, c'est pas un triangle, c'est un triolino. In italiano c'è un triangolo. Per dirti io. Ma questo stasera. È straniero, come guarda. Stasera. Questo è straniero, io sono sempre la Repubblica. Sì, come? No, scusami Bruno, allora vogliamo ricapitolare. Tu stasera che cosa farai? Faccio un triolino. Cioè fai un bel triangolo homosex con tanto di pasta Barilla addosso. Abbiamo già mangiato questa pasta Barilla, era l'unica che avevamo. Cioè tu in mi casa. Stai dicendo, Sammy, mi stai dicendo che a te non te ne può fregare meno di questa roba qua, che no, ha detto? Che me ne frega a me? Cioè tu sei frocio, diciamo frocio perso, frocio no, perso? No, non sono frocio. Il frocio è una cosa. Vabbè, gay, che sei? Allora, vabbè, è uguale, dai, su. Passare il tempo di tanto in tanto, come si dice in francese, ogni tanto, perché è una diversificazione. Vabbè, per dire, ok. Stasera faremo questo triolino insieme. Ma volevo dire, giorni fa il Presidente della Repubblica ha ricevuto due esponenti del PDL per parlare, non so, della politica, come vanno le cose. Senta, oggi sento dire quegli altri, un altro, come si chiama, quello grasso, dice, ma il Presidente della Repubblica parla, non sa quel che dice, doveva prima interpellare i capogruppi. Ma questi politici che parlano così, ma mangiano col culo e cagano con la bocca. Beh, adesso. Non sanno quello che dicono. Beh, che ne so, io Brunino non manco capito quello che lei sta dicendo. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi. Ne sani, scusa, io suali non ci avranno gli assorbenti, ma però noi normali per volare via. No, voglio dire, aspetta è... sì, perché sto vedendo una foto agghiacciante. Squilla il telefono della zanzara. Guarda. Vai, Checco. Vabbè, Parenzo, allora? No, sto guardando su Facebook la foto, da su internet, la foto di questo Davide Pirillo, che è il segretario regionale di Forza Nuova Calabria, sì, che si è fatto fotografare con la pasta io fossi del signor Barilla, ma farei subito una querela per diffamazione, una faccia così, che si permette di sputtanare il marchio. Ma lei, io invito tutti gli ascoltatori. Ma chi se ne frega, dai, su. Davide Pirillo, segretario di Forza Nuova, che si è fatto fotografare con la tazza. Con la tazza Barilla, come con orgoglio vicino. Basilio da Venezia, Basilio, buonasera. Eccomi. Pronto? Vada. Scusate, devo. No, perché stavo guardando la zuppa di piselli. Senta, Tuttani, che piacere parlarle. Pronto? Che piacere parlare con chi? Con me? Certo! Allora va bene, vada. Va. C'ho più la voce, devo togliere. Come fare? Dai, Basilio, su, dai. Senta, no, allora volevo dire che io sono assolutamente favorevole all'intervento del Guido Barilla. E sono molto contrario. Sì. Porco cane storico. Al fatto che voi dite che non bisogna boicottare. Perché se lui entra in campo, è un produttore di pasta e non un sociologo, uno che si interessa di problemi di noi omosessuali, e dice la sua, lo fa, insomma, è normale che qualcuno lo voglia boicottare. Io no, naturalmente. Cioè lei è una checca, si può dire, caro Basilio? No, la checca sarà lei, io vale. Vabbè, un bel checcone, dai, su. Questo telefono... Ma scusa, Basilio, sei frocio oppure no? Io non riesco a toglierlo. Sei gay oppure no? Omosessuale. Omosessuale, vabbè, adesso perché sei così politicamente corretto? Sei gay, punto, dai. No, vabbè, gay. Ma anche frocio, frocio. Ah no, io no, abbi pazienza, io no. No. Scusami, io no, però dopodiché lo sai benissimo. Con quei capelli così lunghi. Beh, che c'è? Tutti quelli che hanno i capelli lunghi sono froci, non ho capito. Beh, insomma, un pochettino sì, dai. Ma quando mai? Ma non è vero, cioè, assolutamente. No, ma tu sai cosa facevano a Sparta? Sai a Sparta, quando si sposavano, che facevano? Perché loro erano tutti froci come me e come te. Ma e quando si sposavano, perché lo facevano per amor di patria, le femmine le preparavano per la prima notte di nozze, sì, tutte rasate. Sì. Che sembrassero un uomo, hai capito? Ah, così, cioè era la depilazione ante litteram, dici tu, la depilazione ai tempi di... depilazione, decappellazione. Cioè, non ho capito, spiegami questa cosa che facevano a Sparta, perché è curiosa questa cosa, che facevano a Sparta? No, allora, a Sparta facevano così. Cioè? Cazzo, se riuscissi a togliere sto viva voce, maledizione. Ma ho capito, ma c'è il viva voce, ma che colpa ho io se tu hai il viva voce, Basilio? Allora, io voglio capire una cosa, cosa facevano a Sparta, secondo te, ovviamente, poi andiamo a verificare, cosa facevano? Depilavano le femmine, che facevano? Non ho capito. Ecco, divento matto. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Basilio, un gay, Giuseppe, che appoggia Barilla, un gay che... Oh, finalmente, spiegami cos'è questa cosa di Sparta, però. Spiegami bene questa cosa di Sparta. Allora, però adesso intanto so tutto del Toronto Bridge. No, vabbè, ma che me ne frega a me del Toronto Bridge? Dai, Basilio, dai. Ma no, ma vabbè. Allora, questa cosa di Sparta funziona così. Cioè? Che loro erano talmente omosessuali, però erano, oltre a essere omosessuali, avevano anche una grandissima amor di patria. Per cui si sposavano e si riproducevano. Vabbè. Per fare quello per forza, quello per forza, sì. L'hai detto, vedi che abbiamo la... Vabbè, stessa Basilio, però siccome qui non possiamo fare una lezione... No, allora te la faccio breve, bravo. Brevissima. Allora, quando la prima notte di nozze le donne venivano preparate, le numbende, tosate a zero. Si chiama quel... Menzolini, come si chiama? Io non ho la TV. Depilate, sì, depilate, pelate, pelate, sì. Non depilate, il pelo sul pube ce l'avevano. Allora... gli tagliavano i capelli completi, vestite da uomo, sì, ai tempi, ho capito, comunità, sì. Un tappo nel sedere perché i mariti non sbagliassero, sì, e così potevano procreare. Ho capito. Però tu stai dicendo che praticamente queste signorine, siccome gli uomini erano, molti uomini erano omosessuali, se non tutti, questa è la tua teoria che va verificata poi, caro no, Basilio. È scritto. No, può darsi che tu hai ragione. No, può darsi che tu hai ragione. Aspetta, ammettiamo che tu hai ragione. Allora, questi qua vengono praticamente, si trasformano in uomini per essere... Scusa, ma perché devono tappare il di dietro? Perché se no sbagliavano e non venivano i bambini. Ah, non potevano procreare. Il culo non fa figli. Sì, non potevano procreare. Ha parlato dei conigli. Sì, ecco. Sì. Ecco. Allora, però, ritornando al dottor Barilla. Vabbè, tu appoggi Barilla, cioè non te ne frega niente del boicottaggio, pur essendo omosessuale, giusto? No, io dico, no, a me interessa moltissimo il boicottaggio. Cioè, e trovo che comprerai la pasta, sì o no? È veramente virile. Ah, ti piace Barilla? Fate molto male. Ti piace Barilla? Ma Barilla non mi piace di più tu. Vabbè, ho capito, ma io che ti posso fare? Io dirtelo. Vabbè, ma dimmelo, sì, ma confessa. Sai che sei un'icona gay. Vabbè, ma sarò un'icona gay. Populi, ma... Vox Dei, fa ma d'accordo, però le icone gay la maggior parte delle volte sono eterosessuali, cioè, c'è mia figlia qui che dice che urlo. Tua figlia senti, quanti anni ha, scusa? Quasi 18. 18 anni, e tu quando l'hai fatta? Quando l'hai... che seno. Ma come che seno? Basilio, dai. No, quasi 18 anni, io a me non interessa perché sono gay. Ho avuto un momento di sbandamento, ma insomma. Ma scusa, come hai fatto? Che ti sta dicendo tua figlia? Ti sta rimproverando? Papà, così dice. Passamelo un attimo, così ci discuto un po', dai. 18... No, ma puoi scherzare, minorenne. No, a 18 anni non è minorenne, scusa, a 18 anni che è minorenne? No, ho detto quasi 18. Ah, vabbè, allora no. Allora ah, vabbè, allora no. Allora no. Puoi parlare. Però scusami un attimo, Basilio, dimmi la verità. Tu lei, sì. Perché hai fatto 18 anni fa una figlia, se sei frocio, scusa? No, è stato un momento di... Ma anche tu dicevi con Platinet, scusami Giuseppe, abbi pazienza. No, scusa. Tu hai detto, tu potresti farmi voi qualche cosa in certe... Vabbè, ma ho capito, ma lascia perdere, io non scherzavo so con Plati. Ma no, ma io scherzavo anche... con Plati, che me lo chiede da sempre questa cosa qua, mi chiede da sempre di avere un rapporto sessuale con lui o lei, di però tu gli hai detto, guarda che potrei. Vabbè, ma io un po' gli do corda per scherzarci. Io voglio capire una cosa, caro Basilio. Tu perché 18 anni fa hai fatto una figlia pur essendo già un perché? Ma no, ma non è possibile, dai. Io sono uno di quei gay non checca. Quelli con la barba, sai. Ma da quant'è che non vai con una donna, scusa? 18 anni fa, l'ultima volta è quando hai fatto la barzelletta cubana. No, qual è? E c'è quello dei due bambini che dicono: sai come fa il lupo? E il bambino o la bambina. Lei dice: no, aspetta che andiamo dalla nonna. Abuelita, de quando es que no haces cositas con l'abuelito? Au! No, beh, insomma, adesso non lo... traducila in italiano. Insomma, sto boicottaggio, secondo te? Traducila in italiano, tutto. Basilio. Intanto devo dare un grande annuncio, Parenzo. Lo sai chi è tornato qui a lavorare al bar di Radio 24? Sai chi è tornato? Sai chi è tornato? Il barista nostro amico. Mitico Johnny. Poi dedicheremo una puntata intera a da dove viene Johnny? A Johnny l'omosessuale del bar del Sole 24 Ore. Grande puntata. No, sì, c'entra. Noi omosessuali siamo più sensibili, i baristi devono essere sensibili. Vabbè, che c'entra adesso? Tu fai tutte delle... Ma che c'entra? Quando tu entri in un bar delle volte, mica sai che vuoi un Negroni. Vuoi qualcosa, lui ti dice, ti legge negli occhi, in quei tuoi begli occhioni che hai, e ti dice, lei vuole un pimps. Basilio, tu sei un numero uno, sei molto alto per noi, però sei... Non è molto alto, faccio 1,70, sono grassissimo. Ciao. Non becco più. Ciao amore, ciao tesoro. Bene, bello. Ciao tesoro, ciao. Ci sentiamo domani, se ancora siamo vivi, 18:30, abbracci, ciao. Occhio che stiamo degenerando, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.